Grazie pastore, grazie ragazzi, grazie per averci portato la presenza del Signore. Buonasera ai papà, un augurio anche da parte mia. Papà, buonasera. Ah, ci siete, non sono l'unico papà. È meraviglioso essere papà e festeggiarli. E per migliorare e per crescere sempre di più ad essere il papà che Lui ci chiama ad essere, possiamo fare solo una cosa e guardare al papà perfetto. È un pochino quello che abbiamo fatto fino ad adesso, no? E cantare anche a squarciagola, come ho fatto io, quindi la voce si è abbassata un po'. Quanto Lui è bello, quanto Lui è glorioso, quanto Lui è potente. Sapete, questo provoca una cosa, questa adorazione, questo ammirare la sua bellezza ci trasforma, perché ci porta alla sua presenza, e quando siamo alla sua presenza tutto cambia. Per questo noi quando ci riuniamo festeggiamo, festeggiamo i papà questa sera, quindi auguri di nuovo, festeggiamo i figli, perché c'è un certo peso anche ad essere figli, vero? Cambia col tempo, quando sei piccolo in un modo, quando sei grande in un altro, però celebriamo tutti e tutti qua. Siamo una famiglia che ci piace festeggiare, diciamo, siamo un po' festaioli, no? Nei gruppi, un po' dappertutto. Ma al di sopra di ogni altra cosa, noi amiamo festeggiare il nostro papà celeste. Al di sopra di ogni altra cosa ci piace mettere Lui al centro, perché Lui è degno e perché quando lo adoriamo ci trasforma. E un pochino è quello che fa il Salmo 45, non un pochino tanto fa questo, il Salmo 45. Quindi vi prego di veramente aprire il vostro cuore a quello che questo Salmo vuole dirci, vuole dirti. Da papà, per crescere ad essere un papà più a sua immagine e somiglianza. Da figlio, affinché tu possa crescere a immagine sua e a sua somiglianza. Quindi andiamo, è la mia preghiera in questa settimana, fino a poco qualche istante fa, è: Signore, apri gli occhi del nostro cuore, Signore, apri gli occhi del nostro cuore, perché abbiamo bisogno di vederti per quello che sei. Ed è una cosa tragica ascoltare queste parole, prendere queste parole, lodare con queste parole e non essere trasformati. Questo è quello che vuole il nemico, e nel nome di Cristo Gesù noi diciamo no. Amen. E chiediamo al Signore che possa aprire gli occhi del nostro cuore. Quindi andiamo a questo Salmo e chiediamo che il Signore possa cambiare il nostro essere papà, il nostro essere figli, il nostro essere per la sua lode, la sua gloria. Sentite quello che dice il Salmo 45, leggiamolo insieme. Al direttore del coro, sopra i gigli, che molto probabilmente o era una melodia o era un canto già esistente, dei figli di Core, cantico, canto d'amore. È un canto d'amore questo. Mi ferve in cuore una parola soave. Io dico: l'opera mia è per il Re. La mia lingua sarà come una penna di un abile scrittore. Tu sei bello, più bello di tutti i figli degli uomini. Le tue parole sono piene di grazia, perciò Dio ti ha benedetto in eterno. Cingi la spada al tuo fianco, o prode. Vestiti della tua gloria e del tuo splendore. Avanza maestoso sul carro per la causa della verità, della clemenza o della mitezza e della giustizia. La tua destra compia cose tremende. Le tue frecce sono acuminate, i popoli cadranno sotto di te. Esse penetreranno nel cuore dei nemici del Re. Il tuo trono, o Dio, dura in eterno. Lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu ami la giustizia e detesti l'impietà. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto d'olio di letizia o di gioia. Ti ha preferito ai tuoi compagni. Le tue vesti sanno di mirra, di aloe e di cassia. Dai palazzi d'avorio, la musica degli strumenti ti rallegra. Le figlie del Re sono fra le tue dame d'onore. Alla tua destra sta la regina. E la regina è adorna d'oro di Ofir. Ascolta, fanciulla, regina. Guarda e porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. E il Re si innamorerà della tua bellezza. Egli è il tuo Signore, inchinati a Lui. In questo Salmo, come pochi altri, abbiamo quello che sta vivendo chi canta questo canto, o chi ha scritto questa poesia, no? Che poi è diventato un canto. Pochi altri salmi ci dicono questo, però qui subito il salmista, quello che sta cantando questa canzone, ci dice: mi ferve in cuore. Mi ferve in cuore. Ora, lui è un poeta, no? Per questo usa queste parole. Se l'avessi scritto io, magari molto più miseramente, avrei detto: c'ho il cuore a mille. No, in barista tengo il cuore a mille. Non lo so come sarebbe uscito. Però c'ho il cuore a mille. Il poeta ha il cuore che gli scoppia in petto. Mi ferve, c'è scritto, mi ferve in cuore. Questa parola ferve dà l'immagine dell'acqua che bolle, no? L'acqua che bolle. Gli sta ribollendo qualcosa dentro. E che cos'è questo bollire? È un geyser d'acqua che sta per esplodere. Questo è come si sente il salmista a cantare quello che sta per cantare di Dio. E il nostro cuore non potrebbe fare altrimenti. Fratelli e sorelle, amici e amiche, il nostro cuore deve esplodere nel nostro petto, deve ribollire in noi a sentire le cose che abbiamo letto del nostro re. E il poeta va avanti e dice non solo che il cuore gli bolle, ma gli bolle di una parola soave. Quello che è successo è che il poeta ha visto qualcosa. E che cosa ha visto? Ha visto il re dei re, glorioso guerriero, potente in parola, e vuole descrivere, inizia a descrivere, inizia a cantare questo canto d'amore per questo re. Però non inizierà a parlare a vanvera, no? C'è scritto, non inizierò a dire quello che mi esce dalla bocca così. C'è scritto proprio: la mia lingua sarà come la penna di un abile scrittore. Dirò quello che dirò in maniera precisa e accurata. Per questo lo Spirito Santo ci chiama a queste parole precise e accurate di ascoltare. E che il Signore possa parlarci attraverso queste sue rivelazioni. Quindi ascoltiamo per bene, perché questa canto, questa poesia, questa cosa che gli ferve nel cuore, questa parola soave è per il re. E chiaramente il salmista dice: è per il re. E chi è questo re? Chi è questo re? Potrebbero essere più di qualcuno. Il re molto probabilmente potrebbe essere il re Davide, no? Del popolo di Dio. Non c'è stato re più grande del re Davide, vero? Quello che lui ha fatto, forse pochi altri hanno fatto nella storia del popolo di Israele, ma soprattutto il re Davide è stato chiamato un uomo secondo il cuore di Dio. Stava a cuore a Dio, stava nella sua presenza in maniera speciale. Per questo poi il Signore gli ha promesso: un tuo erede sarà per sempre sul trono del popolo di Dio. Per sempre ci sarà un erede di Davide sul trono del popolo di Dio. Quindi forse questo canto era per il matrimonio, perché poi vedremo, è un canto che ci parla di un matrimonio, di Davide, forse di un suo erede, per descrivere come questo erede doveva essere, come si doveva comportare. Forse è possibile, è probabile. Al di sopra di ogni altra cosa, questo re è il nostro Cristo Gesù. Cristo Gesù è l'erede perfetto di Davide, è lui l'erede eterno, è lui che è nato da discendenza di Davide ed è seduto su quel trono e sarà seduto su quel trono per sempre. Lui è il nostro Dio, e quindi in un certo senso tutta la Bibbia, tutte le scritture puntano e ci fanno guardare a Cristo Gesù, incluso il Salmo 45. Ma il Salmo 45, fatemi dire così se posso, in maniera particolare fra questo. Guardate quello che c'è scritto nel Salmo e come evidenzia che proprio è Cristo Gesù questo re. Nel versetto 2 c'è scritto che le parole del re sono piene di grazia, no? L'abbiamo letto insieme. Il Vangelo di Luca, al capitolo 4, c'è scritto di questo di Gesù: tutti gli rendevano testimonianza, tutti quelli che lo ascoltavano gli rendevano testimonianza e si meravigliavano dalle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Il primo. Il secondo, nel verso 3, il re è descritto come difensore della mansuetudine, della verità, della mansuetudine e della giustizia. Gesù stesso ha detto di sé: io sono umile e... Nel verso 6 abbiamo poi visto che forse le cose si confondono un pochino. Non so se avete notato nella lettura di questo salmo, magari tornate a casa e notatelo, perché nel verso 6 dice: il tuo trono, parlando del re, quindi sta indirizzando il re, il tuo trono, e poi dice: o Dio, dura in eterno. In questo verso il salmista unisce il re a Dio stesso, quindi loda il Dio re. E chi non altro è stato re su questa terra ed è Dio allo stesso tempo? Chi non altro se non Cristo è l'uomo Dio fattosi carne? Per questo possiamo sottolineare anche dal verso 6 che proprio parla di Gesù. E poi i versetti 6 e 7, quello che abbiamo letto, e poi tu ami la giustizia, detesti l'impietà, eccetera, eccetera, è usato nel Nuovo Testamento, nella lettera degli Ebrei. Sapete, nella lettera degli Ebrei, quando dice Gesù è più grande di Gesù è più grande di Mosè, Gesù è più grande degli angeli, questi versi vengono usati proprio per dichiarare che Gesù è più grande degli angeli. Chi è questo re? Chi è questo glorioso re? È il mio Gesù, è il tuo Gesù che è vivo. E papà, figli, se noi guardiamo a lui saremo trasformati. Lui è il glorioso re che fa la differenza nelle nostre vite. Per tutti gli altri re, per Davide incluso, tutti i suoi eredi, queste parole sarebbero state esagerate, no? In poesia si dice, viene chiamata un'iperbole, è un'esagerazione tutte queste cose, tu sei così, così, avanza nel tuo, fai questo, fai quell'altro, no, è un'esagerazione. Non per il nostro Cristo Gesù, anzi, per il nostro Cristo Gesù queste sono solo ombre, sono solo una pallida, brutta fotocopia di quello che il nostro Gesù è. Lui è più glorioso, lui è più bello, come viene scritto. E quindi come viene descritto questo re? Questo è il cuore del salmista, scrive per il re. Come è descritto questo re? Apriamo gli occhi del nostro cuore e vediamo. La prima cosa che il salmista, ispirato dallo Spirito Santo, dice è che tu sei più bello. A dire il vero, lo dice due volte, la parola bello è ripetuta due volte. Tu sei bello, bello. Io avrei scritto tu sei bello, forte. Sei proprio bello, bello, bello. E quando noi pensiamo a bellezza, no? La prima cosa, almeno io, poi non lo so se... Però per me, quando penso a bellezza, subito quello che mi viene in mente è la bellezza esteriore, no? E forse in quello che noi pensiamo, però appena senti la parola bello bello, a te che cosa è venuto in mente? A me è venuto la parola bellezza esteriore. E sicuramente il nostro re Gesù è bello, ma bello forte, proprio altro che i modelli di tu. Non basterebbero tutti i modelli di questo mondo per descrivere chi Cristo Gesù è, anche fisicamente, esteriormente. Però ci sono tanti altri tipi di bellezza, non è vero? Non c'è solo la bellezza esteriore. Vi faccio vedere alcune immagini, giusto per descriverne alcune di queste bellezze diverse da quella esteriore. La prima sono due immagini di me, piccolo, scricciolo qui, che guarda papà che si fa la barba. Non è un'immagine meravigliosa? Io, piccolo, che guardo il mio papà, che è grande, che è forte, che sa fare tutto, si sa fare anche la barba. Oh, non è bellissimo questo? Provate a mettervi nel mio sentimento da bambino. È una cosa bellissima. Il nostro Gesù è più bello. È più bello di tutto questo. Guardate quest'altra, papà che mi aiuta a soffiare le candeline, ma notate bene, mi sta trattenendo dal bruciarmi vivo, vedete, mi sta proteggendo dalle candeline. Questo è anche il nostro Dio è più bello, lui è protettore perfetto. Papà, se vuoi imparare a proteggere i tuoi figli, guarda al re perfetto, lui è più bello. Guardate quest'altra immagine. Questa immagine, vabbè, passate dallo shock dei capelli lunghi, dai, forza. Erano gli anni 90, andava di mo, era, si faceva, ragazzi, tranquilli. Ok, stavo pure bene, ve lo prometto. Mamma mi diceva che avevo capelli bellissimi, quindi. E ovviamente al mio fianco c'è la mia bellissima sposa. Lei è bellissima, era ed è ancora più bella oggi. È proprio bella, bella, bella, non è vero? Però c'è un'altra bellezza in questa immagine, secondo me. Sono due ragazzi. Lei aveva 17, io 19 anni, quindi parecchio piccoli. L'innocenza, il guardarsi negli occhi e l'innamorarsi. Non è questo un altro tipo di bellezza? Il mio Dio è più bello anche di questa bellezza. Lui è bello, bello in tutti i modi. L'ultima immagine, o le ultime immagini. Queste sono quando mi hanno portato Elijah per la prima volta. Vabbè, io ho assistito al parto, però poi l'hanno preparato e me l'hanno dato in mano. Quindi questa è la prima volta che lo tengo in braccio. E poi le mie donne, le mie bellissime, che ormai purtroppo non sono più così. No, purtroppo, però non sono più così. Non è bellissimo? Guardate il cuore di padre. Antonio, Saverio, essere papà per la prima volta, avere quella creaturina. E c'è tutta la bellezza di affetto, di stupore, di mirare, ma questo è veramente mio. Oh, io ho fatto un figlio, ci sono riuscito, è incredibile. Questo è la bellezza. Il nostro Dio è 100 volte più bello. Lui è più bello. Tutti questi tipi di bellezze sono solo un'ombra di quello che Lui è. Tutte le bellezze dovrebbero farci riflettere su di Lui e farci dire: sì Signore, però Tu sei più bello. Come qualche domenica fa, noi vediamo il sole, il suo splendore e diciamo: Signore, però Tu sei più bello, Tu sei splendente. Questo è il nostro Dio. Lui è più bello, dice il Salmo. E guardate alle immagini che ci sono in questo Salmo, perché in maniera particolare questo Salmo ci parla di alcune bellezze del nostro Dio. Oh, che gli occhi del nostro cuore possono aprirsi a questo, anche in questo istante, anche in questo istante. Guardate, la prima bellezza è in parole. C'è scritto: le parole, le tue parole sono piene di grazia. Il nostro Re Gesù è il Verbo che si è fatto carne, è la parola che si è fatta carne. Lui era al principio. Fratelli e sorelle, amici e amiche, con una parola Lui ha creato la luce e il mare, gli alberi e le coccinelle. Con una parola Lui ha dato, quando è stato qui sulla terra, vista ai ciechi, ha guarito gli ammalati, ha risuscitato i morti, ha cambiato le cose intorno a sé, ha calmato la tempesta con una parola. Forse la parola più debole, forse la parola più soffusa, forse la parola più strozzata sulla croce, quando ha detto: tutto è compiuto, è stata la parola più potente dell'universo. Queste sono le sue parole di grazia che trasformano la mia e la tua vita, che trasformano i nostri destini eterni per sempre. Questo è il mio Dio, questo è il tuo Dio. Non è bellissimo? Non il tuo cuore si riempie di lode per quello che è. È glorioso ed è bellissimo. Le sue parole fanno la differenza. Ma non solo Lui è bello in parola. Non solo è bello in parola. C'è scritto anche in potenza. Il Signore è bello, bello in potenza. Dal verso 3 al verso 5, il Re Gesù viene descritto come un guerriero. No, lo abbiamo letto. Cingiti la spada, vestiti di gloria e maestà, avanza maestoso sul tuo carro. E questo è il nostro guerriero, questo è il nostro Gesù. Lui è sempre pronto alla battaglia, Lui non è mai in ritardo, Lui non è mai troppo debole, Lui non è mai troppo piccolo di fronte a qualsiasi ostacolo. Lui è guerriero potente. Nelle tue situazioni da papà, nelle tue situazioni da figlio, Lui è guerriero potente. Lui fa la differenza e Lui è sempre pronto a combattere le tue battaglie. Vedete, poi continua e dice: la tua destra compie cose tremende. Come ho detto poco fa, non c'è cosa più grande, più tremenda che la sua la destra ha compiuto, se non quando è stata stesa su quella croce. Romani dice che è stato dato, che si è dato con quella destra per perdonare tutti i nostri peccati ed è stato risorto, ha vinto la battaglia delle battaglie per giustificarci. Questo è il mio re, questo è il tuo re, questo è il mio condottiero, questo è il mio supereroe. Mi chiedo se il nostro bisogno di tutti questi supereroi oggi è solo perché abbiamo fame di un guerriero che combatta per noi. Ma c'è un unico, vero e eterno guerriero, e questo è Cristo Gesù, e Lui vince ogni battaglia. Tutto è compiuto, Lui ha vinto già ogni cosa. Questo è il mio guerriero. E sapete ora cosa significa quando diciamo io posso ogni cosa in colui che mi fortifica? Lo stiamo dicendo a questo guerriero. Io posso ogni cosa in colui chi? In Cristo Gesù, il guerriero potente che ha la spada sempre pronta, che ha le frecce che mettono a morte ogni nemico, ogni difficoltà, ogni situazione. Papà, pensa alle tue situazioni con i tuoi figli, adolescenti forse. Ogni allusione puramente casuale. Il tuo Dio è più grande, guerriero forte alla tua destra e Lui sostiene ogni tua battaglia. Ogni tua battaglia, questo è il mio Dio, questo è il tuo Dio, Lui è più bello. Se Lui è con noi, chi sarà contro di noi? Chi sarà contro di noi? Questo è il Dio. I tuoi occhi lo vedono. I tuoi occhi lo vedono quanto è glorioso Cristo Gesù. Chiesa, i tuoi occhi lo vedono. Lui è bello a parole. Lui è un soldato glorioso. E poi dal verso 7 al verso 9 viene descritto come un re, un po' no, in tutto il Salmo è per il re, e qui poi scendiamo proprio nei dettagli. Questo è il re, e il suo viene descritto come il suo scettro di giustizia dura per sempre. Noi ci siamo e non ci siamo, lui invece c'è sempre, lui è eterno. E il suo scettro fa giustizia, lui un giorno metterà tutte le cose in ordine. Non disperare, ingiustizia ti è stata fatta, il Signore metterà un giorno tutto a posto. Lui ama la giustizia e odia l'impietà, l'ingiustizia. Lui metterà ogni cosa nel posto giusto. Questo è il mio re e il tuo re. Però, guardate, potremmo dire tante cose di questo re, però voglio solo osservare questa cosa. Guardate, il suo profumo. Abbiamo visto, agli occhi è bellissimo, alle orecchie parla con grazia, le sue parole sono potenza, al naso ha un odore soave, c'è scritto. Qual è questo odore? Nel verso 7 c'è scritto che questo re, Gesù, uomo Dio, è unto da Dio, cioè riceve questa unzione di olio, gli viene colato, a me piace immaginarlo così, colato d'olio che gli scende dai capelli, sui vestiti, e questo olio è letizia, verso 7, o gioia. Lui ha questo profumo addosso. Ora, avete mai tenuto, per esempio, un bambino in braccio che è appena stato tenuto in braccio dalla nonna che ha messo troppo profumo? Di che cosa odora il bimbo? Del profumo della nonna, giusto? È così, è Cristo Gesù, e il suo profumo è gioia. E se noi stiamo alla sua presenza, indovinate un po' che cosa succede a noi. Il suo profumo viene trasferito a noi, e questo profumo è gioia. Nel verso, poi più in là, nel verso 8, è descritto come nel suo palazzo di avorio, in presenza di musica, con gioia, nella sua presenza, dirà poi Davide, nella sua presenza c'è gioia a sazietà, nella sua presenza c'è gioia. Se oggi sei entrato in questa stanza, da papà, da figlio, siamo tutti figli, se non abbiamo capito, con ansia, con depressione, con sentimenti di rabbia, non lo so qual è la tua situazione, ma se stiamo alla sua presenza tutto quello viene messo da parte, e fratelli e sorelle, amici, amiche, noi profumeremo di gioia, perché alla sua presenza c'è gioia, e c'è gioia a sazietà. Quanto glorioso è il mio re, quanto glorioso il tuo re, quanto è bello il mio re, quanto è bellissimo il nostro prode guerriero. Gli occhi della tua fede lo vedono. Io ho pregato tanto per questo, ho pregato per un trapianto di occhi, per me stesso e per tutti quanti noi. E ho chiesto, Signore, togli gli occhi di pietra che non riescono a vedere e dacci degli occhi di fede per vederti per quello che veramente sei, affinché questo che noi leggiamo di te non ci lasci tiepidi, ma faccia bollire i nostri cuori, che li faccia esplodere come geyser. Quanto glorioso il tuo Dio, il mio Dio. Quanto glorioso il mio Dio e il tuo Dio. E questo Dio, questo re, sta per sposarsi. Sì, perché poi al verso 9 viene presentata la regina, e la regina sta alla sua destra. E questa regina è adornata e decorata con oro e oro di Ofir. E l'oro di Ofir era fra gli ori più puri dell'epoca. Quindi sta dicendo, non sono un oro qualsiasi, l'oro migliore che si potesse trovare. Il tuo Dio ti adorna delle cose più preziose. E qui già mi sono buttato avanti, perché la domanda che ci dovremmo fare è: ma questa regina chi è? Questa regina, questa fanciulla, questa fidanzata, chi è? È la Chiesa. Siamo tu e Dio, che viene presentata al re. Non riuscite, la marcia nuziale, no? Immaginate, provate a immaginarla questa cosa. È un canto d'amore, è un canto per questo matrimonio. Il re glorioso, eterno, e la sua sposa gli viene presentata bellissima. Il tuo Dio, il mio Dio, ti adorna di purezza. Il mio Dio, il tuo Dio, ti prepara a tutto questo. Infatti Paolo, ai Corinti, che era una chiesa come la nostra, solo 2000 anni fa, dice: io vi ho proclamato l'Evangelo, voi questo Vangelo lo avete accettato, e sapete che cosa è successo? È successo un fidanzamento, siete diventate una fidanzata ufficiale. Io vi ho fidanzato, Paolo dirà, a Cristo. Noi siamo la sua fidanzata, e come diceva prima il pastore, come abbiamo cantato, noi aspettiamo quel giorno quando torneremo a casa, quando andremo a casa dello sposo. Tu sei la sposa bellissima e perfetta che lui sta preparando per quel giorno di nozze. Vuoi essere sposa? Maschietti, so che è un po' difficile fare questo sforzo di immaginazione, ma mettiamo da parte quello che sappiamo delle spose. Guardiamolo con gli occhi della fede. Vuoi essere sposa? Se vuoi essere sposa, devi fare due cose. Il Salmo dice che devi fare due cose per diventare sposa. Uno, dimentica. Qui c'è scritto: dimentica il tuo popolo, da dove provieni, dimentica la casa di tuo padre, le cose che ti legano al passato. Dimentica. Se vogliamo essere quella fidanzata, se vogliamo essere quella sposa, dobbiamo lasciarci alle spalle quello che ci tiene legato al passato. In particolar modo, qui la lettera agli Ebrei nel Nuovo Testamento avrebbe detto: lasciamoci alle spalle il peccato che così facilmente ci avvolge. Lasciamocelo alle spalle. Non possiamo condividere la nostra lealtà con qualcun altro. Il nostro sposo si merita tutto di noi, tutto quello che noi siamo. Gli dobbiamo tutto noi stessi. Noi siamo quella fidanzata. Dobbiamo dimenticare, lasciarci alle spalle quello che è stato. E poi c'è scritto: inchinati a lui. Sposa, inchinati a lui. Papà, tutti papà, io lo so il peso che portate, perché lo sono anch'io papà. È un peso gioioso, bellissimo, ma non di meno un peso, vero? Una responsabilità. Figli, io non so qual è la tua relazione col tuo papà, se c'è e vorresti che non ci fosse, o magari non c'è più proprio e invece vorresti che ci fosse. Guarda Dio, guarda Gesù, in questo momento grida: Signore, apri gli occhi del mio cuore affinché io possa vederti, e le sue parole di grazia ti guariranno. Il guerriero potente combatterà per te le tue battaglie. Il re di maestà ti perfezionerà, ti purificherà per renderti pronta al giorno delle nozze. Questo è il mio re, questo è il tuo re. Non è glorioso? Non è glorioso? Ci alziamo in piedi. Ti faccio una domanda. Mi faccio una domanda. Hai veramente visto Gesù? E non sto dicendo l'hai ascoltato, sai chi è, hai mai sentito parlare di Gesù, perché quello molto probabilmente sì. Quello che ti sto chiedendo è: hai mai visto Gesù? Hai mai completamente visto chi lui è? In tutta la sua bellezza, in tutto il suo splendore, in tutta la sua potenza. Il tuo cuore non può rimanere freddo, il tuo cuore non può rimanere tiepido se tu hai visto il glorioso. Per tutti quanti noi, la cosa più importante in questa vita è vederlo completamente per chi lui è. Questo ci trasformerà, l'abbiamo visto. Questo trasformerà le nostre situazioni. Questo trasforma i nostri destini eterni. La nostra vita eterna è cambiata se noi lo vediamo. Per questo ti chiedo: hai visto veramente Gesù? L'hai visto con tutto il tuo cuore, che non hai potuto far altro che adorare? Io l'ho visto. Io l'ho visto. Io ho visto il mio re. Lo vorrei vedere di più, sicuro. Più spesso, assolutamente. Troppo spesso non mi lascio le cose che mi stanno alle spalle, torno a quelle cose. Troppo spesso. Ma io sono qui per dirti: io l'ho visto. La prima volta, forse avevo 6 anni, ve l'ho raccontata questa storia, forse la ricordate. Era un incontro come questo, tornato a casa, mangiato, andato a letto, e nel buio della mia cameretta non so quello che è successo, però ancora oggi, a distanza di anni, ho difficoltà a rimanere senza emotività, perché in quel momento io ho sentito il suo abbraccio, e non era un abbraccio fisico, ma io ho sentito il suo abbraccio. E io ho visto la sua bellezza. E i miei genitori, perché ho iniziato a piangere, sono venuti in stanza e mi hanno chiesto: che cosa succede? E come si fa a spiegare? Non sono riuscito a dire nulla. Nulla. Piangevo soltanto. Io ho visto il mio re. Fratelli e sorelle, amici e amiche, noi abbiamo bisogno di vedere sempre di più il nostro re. Per questo che io prego con tutto me stesso che gli occhi del nostro cuore si possano aprire. E non mi interessa se non l'hai mai visto. Chiedi, grida adesso, dillo: Signore, voglio vederti, apri gli occhi del mio cuore, voglio vederti, apri gli occhi del mio cuore, fammi vedere la tua gloria, fammi vedere quello che il salmista ha visto, apri gli occhi del mio cuore. E se questa preghiera la devi fare per la 100ª volta, non importa, un secondo, anche in tutta la vita, un secondo, basta. Basta vedere una volta e quello rimane per sempre. E lui non è egoista. Lui è un padre buono. Se noi chiediamo, lui ci dà. E ogni volta che chiediamo, lui si rivela e si fa vedere. Noi vogliamo andare per le strade e profumare del suo profumo. Per questo dobbiamo chiedere: Signore, apri gli occhi del nostro cuore affinché possiamo vederti. E allora io ti chiedo, chiudi i tuoi occhi in questo momento. Chiudiamo tutti i nostri occhi in questo momento e fai la tua preghiera. Alza le tue mani, se devi alzare le tue mani, che siano un simbolo del tuo grido, e grida al Signore: Signore, io voglio vederti. E la sua promessa è fedele. Lui dice: a chi cerca trova, a chi bussa sarà aperto. Bussa quella porta questa sera, bussa quella porta e dici: Signore, io voglio vederti. Voglio vederti per quelle parole di grazia che tu hai, che sono potenti. Voglio vederti come potente guerriero che combatte le mie battaglie ed è al mio fianco. Voglio vederti come un re maestoso e adorarti per quello che sei ed essere inondato di quel profumo di gioia. Signore Gesù, apri gli occhi del nostro cuore, apri gli occhi del nostro cuore affinché possiamo vederti. Padre, compi tu il miracolo ancora una volta di fare quel trapianto e di strappare i nostri occhi di pietra e mettere quegli occhi di fede che vedono quanto grande è il tuo amore, quanto alto, quanto profondo. Signore Gesù, apri occhi dalla prima all'ultima fila in questo luogo, apri occhi della fede a vederti come mai prima e che nelle nostre situazioni noi possiamo proclamarti re vittorioso, prode guerriero. Signore Gesù, apri gli occhi del nostro cuore, apri gli occhi del nostro cuore. Forza, alza la tua preghiera, alza la tua voce, alza le tue mani, adora il tuo Dio e chiedi, apri gli occhi del mio cuore, apri gli occhi del mio cuore. Forza Chiesa, forza.